Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo ritornati noi di 451 intersezioni, puntata che va in onda sempre ogni lunedì sera dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Città Fujiko. 451 intersezioni che ricordiamo per coloro che si fossero soltanto oggi per la prima volta messi in ascolto e forse non ritorneranno neanche più su queste frequenze dopo la trasmissione di stasera, sicuramente sperimentale e anche urticante a livello di rumori e di suoni abbastanza ruvidi. E ricordiamo che 451 intersezioni fa parte di un network, di un progetto collettivo che comprende sia 451 intersezioni che 451 frammenti sonori, che di regola è condotta ogni mercoledì notte sempre su Radio Città Fujiko da mezzanotte alle 2 di notte dal collega, amico e compagno Max Macchia. Vi ricordo già anticipatamente che mercoledì prossimo sarà come sempre in studio per un'altra trasmissione di 451 frammenti sonori, e queste due trasmissioni fanno parte del network 451 e potete trovare tutte le trasmissioni con i materiali inseriti e varie notizie relative a album e autori che sono stati appunto messi in scaletta delle varie puntate sul nostro sito, che è 451frammentisonori.noblogs.org. E intanto iniziamo la puntata di stasera di 451 intersezioni. Con varie difficoltà materiali sono riuscito a raggiungere la radio, dato che Bologna comunque è ancora immersa di cumuli di neve miste a ovviamente inquinamento che si è applicato sul bianco della neve. Dunque troviamo già dei blocchi grigi o neri, e questo è già emblematico del livello di tossicità dell'ambiente della città di Bologna. E appena arrivato, l'idea di stasera è quella di approfittare di un appuntamento assolutamente da non perdere con i nostri amici e compagni dell'area sismica, con cui ormai abbiamo creato un vero filo conduttore da parecchi anni con 451, area sismica che vi ricordiamo è un locale, un importantissimo progetto musicale dove vengono inseriti vari concerti, vari progetti, non solo poi musicali ma anche in generale artistici, a Ravaldino in Monte, provincia di Forlì, in via Le Selve 23. E che concerto è? Il concerto di domenica prossima, 15 febbraio, che inizia alle ore 18, data unica in Italia. John Butcher, musicista britannico, uno tra i più importanti musicisti britannici e europei della scena della sperimentazione, dell'improvvisazione radicale, musicista che nasce dal jazz per poi abbandonarlo in parte attraversando ovviamente percorsi legati al free jazz, all'improvvisazione ma anche all'esperimentazione di tipo elettronico. Infatti essendo un polisassofonista lavora moltissimo anche con sovraincisioni e effetti elettronici che rendono il sax assolutamente unico nella sua espressività. John Butcher, che sarà appunto presente, ve lo ricordiamo ancora, a Ravaldino in Monte, provincia di Forlì, domenica prossima alle ore 18 all'area sismica, un concerto assolutamente da non perdere, tempo ovviamente permettendo, ma speriamo che abbia finito la neve, ghiaccio, grandine e compagnia bella a interessare l'Emilia Romagna. Parliamo un po' appunto di John Butcher, che aprirà il percorso di stasera, un percorso che ho voluto intitolare come Noise and Improvisation, appunto l'aspetto rumorista collegato all'improvvisazione radicale attraversando anche atmosfere più legate al jazz ma anche più legate squisitamente al noise, al rumorismo, attraversando per molti versi moltissimi collegamenti con l'elettronica applicata poi all'elettroacustica. In questo caso abbiamo scelto e ho scelto l'ultimo lavoro di John Butcher insieme a Rodri Davis, album uscito nel 2014, esattamente il 26 ottobre, dunque recentissimo, un lavoro che si muove tra l'improvvisazione radicale, free jazz, ma anche un aspetto astratto e sperimentale legato molto alla manipolazione elettronica. Un disco veramente molto molto bello che vi consiglio, in realtà è un'unica traccia, splendida. Noi ovviamente creeremo e utilizzeremo solo un estratto di questo album, che di questa traccia in particolare molto lunga. ricordiamo che oltre a Rodri Davis e John Butcher è presente anche Chris Watson, che lavora appunto all'aspetto di registrazione, all'aspetto elettronico. Rodri Davis è all'ARPA, l'ARPA elettrica, e mentre John Butcher ovviamente ai vari sax, ma anche a manipolazioni elettroniche che vengono utilizzate appunto in questo lavoro splendido. Partiamo dunque con questo lavoro per ricordarvi il concerto di domenica prossima all'Area Sismica alle ore 18 di John Butcher, assolutamente da non perdere. Sentiamoci dunque, apriamo così il percorso di stasera con Noise and Improvisation, John Butcher, Rodri Davis da Routing Lean del 2014, chiaramente come dico al solito, buon ascolto. E siamo purtroppo ritornati in diretta, forse qualcuno dirà per fortuna, in base al brano abbastanza complesso, molto vicino anche come concezione alla musica contemporanea. Avrete sentito questo rumore di fondo, rumore bianco che viene a un certo punto portato alla massima potenza per quasi costruire un percorso sonoro che poi si sviluppa chiaramente in questo brano che dura circa 40 minuti. Abbiamo ascoltato una traccia, un quarto dell'intera traccia di questo splendido album di John Butcher e Rodri Davis, Rooting Lean, del 2014. John Butcher, che oltretutto è stato un importante sperimentatore in questi ultimi 30 anni, essendo anche abbastanza grandicello di età, e ha lavorato con dei grandi della musica sperimentale, in particolare con John Tilbury, ma anche con il grande Toshimaru Nakamura, che ha attraversato 451 intersezioni già un paio di volte. E ricordiamo anche le collaborazioni più recenti. Ultimamente sta lavorando molto sull'improvvisazione elettroacustica ed elettronica, sia con Roddy Davis ma anche con il progetto dei Paul Weschel, che ha attraversato anch'esso 451 nelle ultime trasmissioni, ed è un seguace, un grande estimatore e seguace del grande sperimentatore e improvvisatore Evan Parker. John Butcher, ricordiamo ancora, sarà presente all'Area Sismica, importante concerto domenica prossima alle ore 18. Lo ricordiamo perché lo merita veramente. Da John Butcher, continuando il nostro percorso nel Noise and Improvisation, andiamo a trovare un altro progetto che in realtà è un duo. Si tratta di The International Nothing, progetto nato intorno al 2008, dunque piuttosto recente, costituito da due clarinettisti berlinesi, Kai Faganschinski, speriamo di averlo pronunciato bene, e Michael Ticke, che hanno costruito questo progetto di improvvisazione, con due clarinetti che vengono chiaramente manipolati, devastati a livello elettronico, e lavorano moltissimo anche con l'aspetto più squisitamente rumorista. L'album che andiamo ad ascoltare, ne hanno fatti solo tre fino ad ora, è proprio l'ultimo, The Dark Side of Success, ed è un bell'album dove appunto si attraversa il free, l'improvvisazione radicale, ma l'elettronica è ben presente, oltre che l'aspetto rumorista che caratterizza chiaramente la puntata di stasera. Andiamoci dunque a immergere nel suono di The International Nothing, da The Dark Side of Success. E siamo ritornati in diretta. Adesso abbiamo inserito in sottofondo qualcosa di più tranquillo, dato che qualcuno sarà schizzato dalla sedia o dal divano se stava ascoltando il brano precedente di The International Nothing. C'è stato questo salto radicale con un altro progetto, un progetto sicuramente terrorista sonoro, costruito da il grande geniale Merzbow, che è presente insieme a Ballast Pandi, che lavora alle percussioni della batteria, e il grande Mats Gustafsson, saxofonista, uno dei più importanti saxofonisti europei sulla scena dell'improvvisazione radicale. E come vediamo in questo album uscito nel 2013 intitolato Cats, lavorano proprio sul terrorismo sonoro, sul noise mischiato chiaramente anche all'improvvisazione, ma anche a un certo free jazz, insomma un caleidoscopio di suoni, rumori e suggestioni sicuramente molto molto urticante e graffiante, però sicuramente un disco che trasmette estreme energie, estrema vitalità nel delirio sonoro costruito da questi tre autori. Merzbow poi lavora da parecchio tempo con Ballast Pandi e insieme a Gustafsson creano sicuramente un suono piuttosto unico e originale, rimanendo perfettamente dentro l'idea di stasera di noise e improvisation. E da Mats Gustafsson, Merzbow e Ballast Pandi andiamo a pescare, e non ci potevano chiaramente mancare, i giapponesi, che già sono stati spesso utilizzati nelle ultime puntate di 451 Intersezioni, ma questo tipo di trasmissione si adatta perfettamente al delirio assurdista e situazionista dei giapponesi, e in particolare andiamo a ritrovare Doshimaru Nakamura insieme a Katsura Yamauchi col disco Yuku Toin, uscito nel dicembre del 2012, e che questo disco spazia tra l'elettronica, il jazz, l'improvvisazione e il noise, con Nakamura che fa da padrone a tutti gli aspetti elettronici e rumoristi che attraversano questo album. Ce lo andiamo subito a sentire, dato che il tempo c'è tiranno e manca ormai poco, e dobbiamo velocizzare, dato che noi prediligiamo, diciamo, la priorità all'ascolto, dunque la messa in onda dei brani. Andiamoci dunque a sentire Katsura Yamauchi e Toshimaru Nakamura da Yuku Toin. Buon ascolto. siamo ritornati in diretta, abbiamo dovuto sfumare questo vero e proprio attacco terroristico e deflagrante di questi due personaggi assolutamente pazzi come Katsura Yamauchi e Toshimaru Nakamura. Bellissimo album, ma sicuramente abbastanza tosto all'ascolto, ma chi ama comunque la sperimentazione anche portata alle massime diciamo biforcazioni verso anche il noise, verso il rumorismo più estremo, sicuramente amerà questo disco Yuku Toin del 2013 di questi due pazzi giapponesi. E da questi due pazzi giapponesi ci avviamo verso la fine di questa puntata di stasera Noise and Improvisation. Vi ricordo chiaramente ancora una volta che le puntate e i vari elementi caratterizzanti le trasmissioni di 451 Intersezione le potete trovare sempre sul nostro sito 451frammentisonori.noblogs.org e vi ricordo sempre che mercoledì prossimo, sempre dalla mezzanotte alle 2 di notte circa, ci sarà 451 Frammenti Sonori condotto da Max Macchia. E vi lasciamo con un disco seminale importantissimo per tutta l'improvvisazione che si muove negli anni 90 e negli anni 0 e negli anni attuali, che mischia elementi rumoristi, free jazz, improvvisazione ed elettronica. Un disco importantissimo uscito nel 1987, dunque facciamo un viaggio a ritroso di quasi 30 anni e andiamo a trovare uno splendido lavoro, Low Life, di Peter Brotman e Bill Lowswell, due grandi sperimentatori che hanno attraversato oltretutto anche generi, territori musicali molto differenti, ma che li ha accomunati sempre come grandi ricercatori e sperimentatori musicali. Chiudiamo dunque con questo splendido disco, con una traccia che dà l'idea molto bene di questo album, è proprio il brano che dà il titolo all'album, Low Life, di Peter Brosnan e Bill Lowswell. Vi lascio dunque poi alle trasmissioni di Radio Città Fujiko, vi aspetto chiaramente lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21 sulle frequenze di questa radio. Buona serata da Elisio Scarpa, un saluto da 451 Intersezioni.